piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Buonasera e bentornati al TG Disagiati. Agevolati. Ah, agevolati. Questa sera in studio con voi Raffaella e Ciro. Perché oggi vogliamo mostrarvi uno scenario ignoto e poco conosciuto, ovvero le comunità. Le comunità? E che sono le comunità? Quali casi umani vivono in comunità? Ma soprattutto, ma le comunità in Italia esistono? Ma che stai dicendo? Ma come che sto dicendo? Io sono rimasta agli orfanotrofi, ai collegi, come nella serie TV. Ma non esistono da anni, e poi sono stati chiusi nel 2006. Ma veramente? Allora, mio caro Ciro, stasera abbiamo uno scoop. Luci in sala, per favore. Ma che devi fare? Come che devo fare? Barbara D'Urso stasera ci fanno baffo. Parlo io, che è meglio. Ma andiamo al nostro primo servizio, il nostro Jimmy Giordano, in cui ci addentreremo nella vita della comunità. Vediamo. Chi mi ascolta sa cosa sono le comunità. Sì, perché sembra un termine desueto, un termine che appartiene ad altre epoche, ad altre sensibilità, qualcosa che ha a che fare forse con il buonismo, magari la gente li confonde, non lo so, con le ONG, sono quelli che fanno arrivare gli immigrati. No, le comunità in questo caso è un'altra cosa. A parlare erano dei ragazzi che sono dei care leaver. Avete mai sentito questo termine? Chi sono i care leaver? Care leaver sono ragazzi che a un certo punto non potevano più stare nelle loro famiglie e quindi sono stati messi in delle comunità o affidati ad altre famiglie. Accade che a un certo punto le famiglie non siano più in grado di gestire un ragazzo. Non c'è soltanto Bibbiano come realtà rispetto a questo problema, no? Sono ragazzi che realmente non possono stare nelle loro famiglie. Ci sono dei problemi di disagio forte, disagio familiare o altri mille problemi, per cui a un certo punto lo Stato decide che è bene per la loro salute, per la loro salvezza, che siano affidati o ad altre persone o messi in una comunità. Questo, tutto sommato, è una forma di vita migliore di quella che avrebbero rimanendo nella loro famiglia d'origine. Non sempre la famiglia è questo luogo in cui ci si trova particolarmente a proprio agio. La famiglia può diventare un inferno. Quindi non passa l'idea che ma pur sempre meglio in famiglia, sono sempre i genitori. No, non è detto che i genitori siano sempre le migliori persone al mondo per occuparsi di un essere umano in crescita. Beh, passato questo momento, comunque sia, questi ragazzi entrano in una comunità, entrano in dei posti che dovrebbero perlomeno, diamo per scontato che lo siano, essere testati, monitorati, perché sia la miglior soluzione per questi ragazzi. Poi accade che i ragazzi crescono, non rimangono eterni bambini. Quando arrivano all'età maggiore, escono dalla comunità e devono affrontare la vita. La devono affrontare con degli strumenti di elaborazione della realtà diversi da quelli dei nostri figli, che con tutti i nostri limiti comunque ci siamo tenuti in famiglia. Qualcuno comincia a porsi il problema di questi ragazzi, che a un certo punto sono come abbandonati a se stessi, non hanno un retroterra familiare su cui far conto nel bene o nel male, a cui far riferimento, un ammortizzatore rispetto ai problemi della vita. E cosa accade a loro? E questa è la domanda che ci poniamo questa mattina, perché è una domanda abbastanza singolare. È accaduto qualcosa che in realtà passa abbastanza in penombra, perché nulla a che fare con i citofoni di Salvini o con le dichiarazioni della Meloni o quello che dice Conte, quello che dice Zingaretti, che si tratta sempre di problemi importantissimi sicuramente, ma che non tocca la realtà di questi esseri umani che sono cittadini italiani a tutti gli effetti, che a 18 anni si trovano con qualche difficoltà in più rispetto agli altri. Questi che parlavano erano dei ragazzi care leaver di un network in Campania, che hanno messo su un canale YouTube dove raccontano le loro storie, cercano di farsi sentire, cercano di essere in qualche maniera rappresentanti di una realtà. C'è stato l'approvazione di un emendamento ieri che era stato appunto nell'ambito della legge antibullismo, che è stato presentato dall'onorevole Emanuela Rossini, che è del gruppo misto, e approvato alla Camera dei Deputati, ma si immagina che c'è una, diciamo, un consenso bipartisan su questa legge che si occupa appunto dei caregiver. Innanzitutto sposta, aumenta il fondo che si occupa bene o male loro quando vengono affidati al mondo, e copre poi con un sussidio, un piccolo sussidio, la loro entrata nel mondo, che finora era fino a 21 anni, fino a 25 anni. Fino a 25 anni qualcuno si può occupare di loro, ma però sempre in dei progetti con delle, diciamo, degli enti che studiano, immaginano un'idea per poterli avviare verso la vita. Per oggi vogliamo parlare dei caregiver, perché è un tema che non ho mai toccato in quasi 40 anni di radio, non mi è mai capitato, e oggi ne parlo. Federico Zullo, buongiorno. Buongiorno. Allora, Federico Zullo è presidente e fondatore dell'associazione Agevolando, che è una, nasce da un'iniziativa di alcuni giovani che sono, appunto, hanno vissuto l'esperienza sia di affido in comunità, in casa famiglia, e cominciano anche loro a uscire dal mondo. Hanno voluto mettersi insieme, fare network, raccontare questa realtà. Sono gli stessi ragazzi che abbiamo sentito in apertura di quel TG Campano, quelli di cui si occupa lei? Sì, sì, sì, assolutamente sì. I caregivers sono proprio i ragazzi che escono da percorsi di accoglienza fuori famiglia in cui sono entrati durante la minore età, quindi comunità per minorenni, affido familiare, casa e famiglia, e che poi una volta usciti, quindi ragazzi che escono appunto da questi percorsi, una volta usciti si trovano in una difficoltà abbastanza considerevole da diversi punti di vista. E quindi, ecco, si può fare dare un po' di numeri? Sì. Quanti indicativamente sono in Italia le persone in questa situazione? Ma sono migliaia e migliaia, ogni anno 3.000, poi se sommiamo quelli di ogni anno, insomma quelli che adesso magari hanno 25 anni, sono usciti 7 anni fa, siamo sui 20.000. Ecco, diciamo, sono 20.000 esseri umani che comunque, vediamo se, conosco molto poco il problema, perché è un problema di cui non si parla, e oggi per la prima volta me ne sto rendendo conto, me ne faccio anch'io carico e responsabilità. Questi 20.000 ragazzi sono ragazzi che hanno avuto già una situazione familiare problematica, se no non sarebbero oggi caregiver. A un certo punto sono stati tolti alla famiglia d'origine o affidati ad altre famiglie o messi in delle comunità. Queste comunità, come sono definibili le comunità in cui vanno questi ragazzi? Delle case dove delle case grandi, comunque dislocate nelle normali città. Gestite da chi? O da cooperative sociali o da enti religiosi. Tendenzialmente questo è il tipo di organizzazione, le no profit, quindi tutte organizzazioni queste, no profit. In queste case questi ragazzi, diciamo, fanno una vita, qua sono in delle piccole comunità, come fossero delle si case famiglia. Si chiamano comunità, ma sono case con massimo 10 ragazzi, stanze da 2 o 3 posti e tutto quello che c'è normalmente in una casa. A che età c'entrano più o meno in una casa questi ragazzi? Allora, le comunità, le case famiglia ci sono anche per bambini piccoli. Quando sono per bambini piccoli sono davvero pochi quelli che stanno dentro, perché devono essere comunque seguiti molto bene. Diciamo che la gran parte dei ragazzi in comunità ha dai 12 anni in su. Stando in comunità hanno una vita sociale però regolare, vanno a scuola, possono uscire, hanno amicizie, fanno vita sociale. Fanno le stesse precise identiche cose che fanno a casa con le famiglie, normalmente i ragazzi che vivono con la loro famiglia, e le fanno però accompagnati, sostenuti da persone differenti dai loro genitori. Quindi hanno dei punti di riferimento, che sono delle persone, diciamo, specializzate, che per mestiere fanno gli educatori e quindi li seguono. A 18 anni cosa succede? Con la maggiore età cosa succede? Succede a 18 anni che non c'è più l'obbligo, a meno che non ci sia stato un proseguo amministrativo, su cui possiamo anche fare una parentesi, non c'è più l'obbligo da parte dello Stato di occuparsi di questi ragazzi perché sono maggiorenni, quindi non c'è più un obbligo di tutela, e pertanto lo Stato non ha predisposto, lo Stato, gli enti locali non hanno predisposto delle soluzioni per sostenere e accompagnare questi ragazzi, soprattutto quelli che non rientrano a casa, perché a casa ancora non c'è una situazione positiva. Gliela dico casa... brutalmente, come sì. Sto capendo adesso io. A 18 sì. anni ti dicono, caro ragazzo, tu ancora devi fare l'università, devi entrare nel mondo del lavoro, devi costruirti una vita, però per me te ne vai a casa, ti prendi una bella valigia, se anche la tua famiglia d'origine non c'è più, non è più nelle possibilità o prudenzialmente è bene che non ti accolga, il mondo è tuo, arrangiati, più o meno è questo. Sì, normativamente è proprio così, nel senso che succede questo. Fortunatamente le associazioni, le cooperative, gli enti che accolgono questi ragazzi li prendono un po' anche come dei figli, quindi fanno fatica poi ad abbandonarli sulla porta con la valigia, cercano di trovare delle risorse, delle risposte loro dal basso, però senza un supporto, quindi le risposte a volte non sono risolutive. Nella zona grigia fra volontariato, iniziative, progetti, darsi da fare, esatto. Persone che vogliono, che non c'è niente di certo. Sentiamo Elisa. Elisa, buongiorno. Pronto? Elisa. Sì. A che titolo hai chiamato? Parli te. Cosa sei, una caregiver? Io sono una caregiver senior del Trentino. Quanti anni hai? 21. Ecco, che stai facendo te adesso? Io in questo momento sto facendo un tirocinio in una focacceria tramite un corso FSE promosso da una cooperativa qui a Trento. Quindi tutto sommato nel clima generale qualcuno ti sta aiutando? Sì, vivo in una comunità in semiautonomia assieme ad altre ragazze con gli educatori che passano settimanalmente. Ecco, tu hai 21 anni, tu fino diciamo ai 18 anni sei stata in qualche maniera seguita, perché lo Stato fino a 18 anni pensa a ragazzi con i tuoi problemi. Poi diciamo sei stata fortunata perché in Trentino dove sei te hai trovato comunque la maniera di poter continuare a stare con altri ragazzi e continuare a lavorare. Ma come vivete la vostra vita rispetto ai vostri coetanei che hanno un percorso di vita diciamo più standard? Vi fate progetti, pensate un giorno di uscire dalla casa, di essere autonomi? Fra di voi cosa vi dite? Beh, sicuramente rispetto ai miei amici coetanei che vivono assieme alle loro famiglie, io ho una vita un po' più da adulta rispetto a loro, nel senso che devo andare per uffici a farmi l'ISE, l'ITEF, dall'assistente sociale, andare a fare carte, documenti, cose che di solito una persona inizia a fare intorno ai 25 anni o comunque ai 30 quando esce dalla propria casa. E io queste cose le ho imparate a fare 2 anni fa e tu riesci, diciamo, con il tuo lavoro a mantenerti, a vivere col tuo lavoro? Non totalmente, no. Quindi hai bisogno, sei ancora, c'è una condizione che qualcuno deve aiutarti. Sì. Il passo successivo quale sarebbe? Se tu dovessi costruire un progetto della tua vita, cosa pensi di fare? Continuare a rimanere in una casa famiglia, e la tua vita ormai è questa, è quella della casa famiglia, o un domani cercare una tua autonomia? Pensi dai tuoi amici che vedi, i colleghi tuoi, chiamiamoli colleghi, che vivono la tua stessa situazione, vedi che è possibile poi fare questo passo successivo? Beh, il mio sogno sarebbe quello di andare a vivere insieme a 2 mie amiche che hanno vissuto assieme a me e in comunità, andare a vivere insieme in un appartamento, in una casa, noi tre, e quindi sì, il mio sogno è quello di diventare autonoma a tutti gli effetti. Quindi, insomma, un domani. Ormai diciamo nel vostro condizionamento di vita ce le dà la comunità, gli amici con cui hai condiviso questi anni di comunità saranno quelli con cui continuerai a condividere la vita. Sei quasi sì. Un ordine, diciamo, un ordine laico, chiamiamolo così, alla fine. Ci sono dei legami così stretti che alla fine avete voglia di rimanere assieme. Sì, è la mia seconda famiglia. Sentiamo Michele, grazie Lisa. Michele, buongiorno. Buongiorno a lei. Intanto do il numero 800240024, ho dimenticato di dare, siamo una trasmissione in diretta. Chi ci ascolta e fosse toccato comunque dalla realtà dei caregiver, chiami questa mattina, perché stiamo dando voce a delle persone che normalmente non hanno molta voce, perlomeno non entrano né nei programmi politici né nelle azioni di propaganda elettorale, o se ne parla poco. Guardi, Michele, ieri siamo stati in Parlamento, quindi un po' di voce in più la stiamo acquisendo. Ma oggi vi chiamo proprio per questo, perché la novità è questa. Per oggi facciamo la trasmissione perché c'è stata una novità. Normalmente tu cosa fai, Michele, innanzitutto? Rispetto io a Elisa. Studio all'università, studio sì. Lingue. Come diciamo il tuo percorso di vita è stato stare anche te in comunità fino a 18 anni, poi cosa hai fatto prima di entrare nell'università? Esatto, io ho lasciato la comunità esattamente a 19 anni, quando poi sono entrato in una residenza universitaria, ho iniziato il percorso universitario. E come ti sostieni? Io mi sostengo attraverso dei finanziamenti come la borsa di studio E facendo anche dei lavoretti miei, ad esempio, io seguo due ragazzi. Diciamo, tu ti stai organizzando un tuo percorso di vita con un minimo di apporto che ci deve essere comunque, che deve continuarti a seguire e aiutarti, e anche dandoti molto da fare con gli strumenti a tua disposizione. Allora, ci fermiamo soltanto un istante, devo dare la linea. Riprendo fra poco con Federico Zullo per dire qual è la novità per cui oggi parliamo dei caregiver. A tra poco. La condivisione in comunità ha due facciate della medaglia. L'aspetto positivo è molto semplice. Diventa a volte meno difficile abituarsi ad un contesto del genere. Ci si sostiene, ci si appoggia, ma soprattutto ci si aiuta. Siamo diversi e questo rende ognuno di noi unico a modo suo. Si può sicuramente immaginare quanti momenti di sconforto ci accompagnano ogni giorno. Eppure non siamo soli, mai. L'unione è la cosa che ci rende invincibili. Ovviamente c'è il risvolto della medaglia negativo. Condivisione è sinonimo anche di sacrificio. La prima cosa di cui ci si priva sono gli spazi, la camera. Stiamo questa mattina dando voce ai caregiver, una categoria di umanità, abbiamo detto 20.000 ragazzi in Italia più o meno, che ha avuto un percorso di vita complicato, ha avuto grossi problemi, per cui non potranno più stare nella loro famiglia con i loro genitori naturali. E lo Stato li ha affidati o altre famiglie o a delle istituzioni, delle case, delle comunità in cui potranno continuare a fare la loro vita. Lo Stato se ne occupa fino a che hanno 18 anni. Poi esistono delle forme, diciamo, di accompagnamento e di sussidio all'entrata nella vita, che già è difficoltosa per tutti, anche chi ha una famiglia solida alle spalle ha queste difficoltà, ma per questi ragazzi è ancora più difficoltosa. Ne stiamo sentendo qualcuno perché non ci eravamo mai occupati. Ce ne occupiamo perché è accaduto qualcosa. Uno di questi ragazzi che abbiamo sentito poco fa ha detto ma ieri siamo stati chiamati in Parlamento, abbiamo parlato. Quindi cerchiamo di capire cosa c'è di nuovo, perché mi sorprende, devo dire, in un momento in cui sembra che la spietatezza è la cifra che ha maggior valore nel dibattito politico, o perlomeno la pietas applicata a parole di passo, molte volte comportamenti soltanto superficiali, trovo singolare e degno di essere raccontato, ci sia stato comunque un'azione parlamentare a favore di una fetta di umanità che in realtà non porta vantaggi in termini elettorali o in termini di consenso. Non sono le mamme o le pseudomamme di Bibbiano portate sul palco per raccontare le storie delle loro vite. No, sono dei ragazzi che sono molto silenziosi, di cui sente parlare poco. Di quello che è accaduto ieri chiediamo cronaca dettagliata alla persona che probabilmente ne è la maggior responsabile e ne è coinvolta. Emanuela Rossini, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Emanuela Rossini. È una deputata iscritta al gruppo misto, è stata eletta dal partito autonomista Trentino-Tirolese. Quindi, devo dire senza offese, è quanto più lontano in questo momento dalla politica che vediamo tutti i giorni trattata dai media. Lei, quale responsabilità sul fatto che dei caregiver oggi se ne parli un po' più? Ma io li ho invitati in Parlamento in occasione della loro seconda assemblea nazionale della rete dei caregiver, che è un progetto che è nato dal basso, ovvero i ragazzi stessi si sono organizzati per poter anche creare una loro famiglia e sostenersi, e nel 2010 hanno fondato l'associazione Agevolando e in tutte le regioni hanno aperto una loro sede. Allora io li sto seguendo dall'inizio del mio mandato e quando ho saputo che faceva il loro convegno anche per portare la loro voce a conoscenza sia di chi li sta occupando ma anche delle istituzioni, ho detto venite in Parlamento, c'è bisogno di far conoscere la vostra situazione e anche di avere una platea più ampia di ascolto. Il presidente Roberto Fico li ha accolti e in quell'occasione, devo dire come per magia, passato anche un emendamento a cui ho dedicato quasi un anno per costruirne le il contesto. Che l'ha presentato lei questo emendamento? L'ho presentato io, è stato accolto dai relatori e molto sostenuto, devo dire, dalle onorevole Devi e D'Orso, che sono... Quindi ha trovato tutti d'accordo su questo tema, stranamente sono stati tutti d'accordo. Ma diciamo che lo stanno scoprendo che c'è questa situazione, questi ragazzi che, come avete detto voi, a 18 anni sono soli. La cosa concreta che è partita è che nel 2019 per la prima volta è stato istituito un fondo per loro per sperimentare dei percorsi di accompagnamento in questa fase che è cruciale di giovane adultità, dai 18 ai 21 anni, almeno per permettere a questi ragazzi di completare il percorso formativo. Cioè, ora, diciamo, non vengono proprio abbandonati, sono sempre cittadini italiani che a 18 anni in realtà si trovano un po' sprovvisti degli strumenti naturali che hanno le altre persone, che hanno, come ho già detto, bene o male una famiglia dietro che ci pensa, e oggi non mi sembra che le famiglie non si occupino più dei ragazzi a 18 anni, i figli certo, vanno accompagnati un bel po'. Nella nostra società un ragazzo a 18 anni non ha ancora finito la scuola dell'obbligo, quindi è impensabile pensare che loro possano essere in grado di avere casa, lavorare, e invece il nostro paese in tante regioni sono in strada. Ecco, vogliamo capire un po' meglio, Manuela Rossini, perché forse non si è reso bene il tema. Questi non è che sono ragazzi, la loro vita familiare, quali sono i motivi per cui oggi si trovano in delle comunità piuttosto che stare a casa loro? Sono motivi anche molto gravi, anche molto dolorosi, anche cruenti. Ma certo, sono ragazzi che hanno subito violenze, abusi, sono stati tolti come estrema razio il bambino, il ragazzo che in famiglia rischia la propria incolumità, diciamolo. Se no sembra che raccontiamo una falsa. No. Sono ragazzi che hanno subito violenza in famiglia, abusi in famiglia, che hanno famiglie che assolutamente vanno tenute lontane da loro. Esatto, questo che voglio dire. Non stiamo parlando di incompatibilità, di errori. Ci possono essere, non entro in quello, però questa fascia di ragazzi che va ascoltata, sono ragazzi che sono cresciuti o in comunità o in famiglia in affido, e molti sono stati fortunati, proprio lo raccontano, perché hanno trovato una seconda famiglia. Però anche in questo caso l'affido termina a 18 anni, molte famiglie, perché sono di più poi i ragazzi in affido, molte famiglie decidono poi di proseguire con loro anche se non hanno un aiuto allo Stato, mentre molti concludono. E comunque la famiglia stessa affidataria si aspetta che inizi ad essere autonomo. Diciamo, quindi, i più fortunati sono quelli che hanno una famiglia affidataria che li ha voluto bene, li ha seguiti, li considera loro figli a tutti gli effetti e non li lascia certo per strada a 18 anni. Questi sono tutto sommato i più fortunati. Però sono molti che cambiano anche tante famiglie di affido, non è semplice. Anche sì, non è, diciamo la verità, non è un'adozione, sono delle famiglie, infatti, esattamente. Sono famiglie generose, le famiglie affidatarie. Devo essere sincera, ne seguo tante situazioni perché ci sono anche molte, c'è bisogno anche di un sostegno psicologico per molti ragazzi, perché poi devono fare i conti con la loro storia. Certo, poi Emanuele Rossini, lei sa che un'attenzione istituzionale non può basarsi soltanto sulla generosità di singoli, ci vuole un piano strutturato, esatto, che tenga conto del problema. Esatto, è proprio questo. Devo dire che nella scorsa legislatura è partito un primo percorso e un primo impegno, e quindi questo fondo ha dato vita a un inizio di sperimentazione che sta avvenendo. Sono 5 milioni all'anno per un triennio, diciamo, 2018-2020. Esatto. Non sono poi tantissimi, però. Non sono tanti, però hanno acceso la progettualità in molte amministrazioni pubbliche. Io ne sto seguendo diverse, per esempio a Verona, in 13 regioni. Con quel poco che poi arriva dal fondo, iniziano ad accompagnare con un percorso molto individualizzato i ragazzi, nel fargli completare la scuola, nel creare magari abitazioni di co-housing, così condividono. Ecco, questi progetti da chi nascono di solito? Sempre da associazioni del terzo settore o proprio anche, diciamo, le amministrazioni molte volte si attivano? Ci sono delle amministrazioni vedo nella mia regione, sto seguendo, ma anche Verona e forse un bel progetto Fidati, ma anche a Milano. È chiaro, è un primo inizio, ci sono ancora troppi ragazzi da soli, però è un primo inizio. Ma se lei l'ha fatta una delle sue ragioni anche nel suo percorso, è un mio obiettivo di legislatura, è un suo obiettivo, ecco, è chiaro. Sì. Evidentemente c'è un problema però in Italia. Sì, c'è un problema nell'accompagnare i giovani in questa fase di giovane adultità. Esistono delle situazioni, io penso sempre alle situazioni peggiori, non dobbiamo sempre mostrare il lato positivo. Quelli lasciati a se stessi che fine fanno molte volte? Ma rischiano. Ragazzi a rischio, di uscita da una vita sociale decente, ecco. Assolutamente, questo è. Sono ragazzi che non hanno problemi in sé, lo voglio sottolineare, le loro famiglie e i contesti familiari di provenienza avevano grossi problemi, anche di dipendenza, parliamo di problemi gravi da rendere poi capace il contesto familiare di crescere dei figli, insomma, parliamo di cose gravi. Emanuela Agostini, dobbiamo fermarci soltanto un attimo, dare la linea. Ci fermiamo a questo punto, ma riprendiamo proprio fra un istante. Quello che sta dicendo l'onorevole Emanuela Agostini è che non sono ragazzi a rischio in quanto portatori di disabilità, portatori di dipendenze, sono ragazzi che sono l'esito di famiglie abbastanza sfortunate o abbastanza atipiche in cui c'era questo tipo di problema, e questo problema ha causato probabilmente per loro una fanciullezza molto difficoltosa e l'uscita dalla famiglia. Ci fermiamo un istante. Melog 800240024, questa mattina lo dico prendendomi io tutte le responsabilità, per la prima volta mi sono accorto che esiste in Italia il problema dei caregiver. Evidentemente era stato poco comunicato, mal comunicato. Soprattutto mi rendo conto che c'è stato un impegno reale, concreto, istituzionale, bipartisan, per aiutare questi ragazzi, che sono ragazzi che sono la parte della nostra società, che sono il risultato di quanto più nascosto, ipocritamente sottaciuto, di fisiologicamente negativo nella società, che sono le famiglie marcite, da cui naturalmente bisogna togliere i ragazzi perché non ne vengano contaminati. Questi ragazzi sono seguiti dallo Stato fino alla loro maggiore età e poi si sparpagliano nel mondo. Si sta muovendo qualcosa perché è stato approvato un fondo destinato a loro per dei progetti, dovranno aiutarli a seguire, però sono bricioline rispetto a quella che è l'aspettativa di vita di ragazzi. Abbiamo il telefono Elia, buongiorno. Sì, buongiorno Nicoletti, guardi, io adesso sono un po' emozionato perché sentire insomma la vostra trasmissione mi riporta un po' a quello che è il mio vissuto. Ce lo può raccontare, qual è il suo vissuto? Io ho fatto parte di un periodo storico negli anni 90, provenendo da una famiglia con problematiche di tossicodipendenza, insomma, sono stato preso dalle assistenze sociali e posto dentro la comunità. Quanti anni aveva Elia? Ho fatto dagli 11 ai 18 anni. Adesso quanti anni hai Elia? Quanti anni hai? Ne ho 41. Quindi è passato il tempo. Il tempo è passato e io conobbi Federico Zullo, il presidente di Agevolando, all'interno... Sì, poi lo sentiremo, abbiamo sentito all'inizio, sentiremo con lui per le conclusioni, esatto. Sì. E, insomma, per farla breve, io ho vissuto in prima persona quello che è stato il periodo della comunità e trovarsi di fronte ai 18 anni alla vita reale, quindi a un contesto non protetto, a quello che vuol dire alzarsi la mattina, cercare un lavoro, non avere un sostegno, seguire le parti burocratiche, insomma tutto quello. Quello che ha detto, che ha detto la ragazza poco fa. Però mi fa capire una cosa, sì. Sono proprio curioso, mi spiega il rapporto fra i ragazzi, perché alla fine, da quello che ho capito dalle persone che ci hanno chiamato, rimane come una sorta di legame solidale indissolubile tra questi ragazzi. Se loro vogliono rifarsi una vita, è come se creasse, come fosse un ordine quasi monastico, uso un termine esagerato. Rimane comunque un vincolo, perché? Perché tutti hanno comunque vissuto questa ferita che è difficilmente sanabile, di essere stati tolti dalle loro famiglie. Sì, confermo che il legame è indissolubile, nel senso in qualunque circostanza potessi trovarmi io o le persone con le quali ho vissuto quegli anni in comunità, siamo rimasti profondamente legati, nel senso ci siamo. Se dovesse avere bisogno una persona, noi ci siamo per loro. Lei che situazione ha conosciuto, Elia, tra i suoi colleghi? Per quali ragioni? Sì, ve lo raccontavate fra di voi? Io sono venuto via dai miei genitori perché si drogavano, io perché mi picchiavano. Mi fa capire un po'. Il ventaglio era molto ampio, perché c'erano persone, almeno nel mio caso, con problematiche di tossicodipendenza in famiglia, e quindi mi hanno tolto da una situazione così. C'erano persone che invece che entrare in riformatorio per reati minori e venivano messi in comunità facendo una sorta di recupero, perché io ho vissuto un periodo dove esisteva ancora la comunità, dove eravamo tipo 40-50 ragazzi. Adesso questa realtà non esiste più, adesso esistono le case famiglia, quindi uno spazio che si cerca di dare più piccolo anche alle persone. Una dimensione più umana, certo, logicamente. Sì, eravamo un numero e ovviamente dovevamo essere seguiti da tre persone fondamentalmente, e 40-50 ragazzi di a volte anche etnie diverse, culture diverse, storie di vita diverse, metterli tutti insieme e tenerli a bada. Però eravate tutti bambini, questo bisogna dire. Eravamo bambini, c'erano anche presenze di maggiorenni che avevano situazioni un po' più pesanti. Diciamo che era un po' meno definita la situazione. Però fondamentalmente eravamo tutti si è fatto... minori. Lei che ha fatto, dopo 18 anni che ha fatto? Il giorno che è finito l'assistenza pubblica, cosa ha fatto lei? Beh, io ho trovato nel giorno dell'uscita dalla comunità la felicità di ritornare ad avere una mia vita, perché nel frattempo avevo comunque perso la mamma, c'erano situazioni alle quali io forzatamente ero stato tenuto lontano. Poteva tornare a casa un po' più tranquillo, questa era la situazione. Sì, però devo dire che quel periodo è stato un periodo brutto, perché ovviamente mi sono ritrovato solo, senza guide, senza più nessuno che ti potesse dare una pacca sulla spalla per dirti stai facendo bene, oppure lì stai andando su una strada sbagliata, potresti cercare di rindirizzarti da altre parti. E ho avuto anni pesanti dove devo ammettere È stata dura, ma il lavoro che sta facendo Federico... Vabbè, adesso lo sentiamo, Elia, non c'è bisogno che... Si auto raccontala solo. Intanto grazie alla tua testimonianza. Federico Zullo, allora, evocato, e adesso concludiamo con lei, che è presidente fondatore dell'associazione Agevolando. La cosa che mi sembra di capire però, che questi ragazzi in fondo non appartengono a nessuno, a parte voi che ve ne occupate, li siete direttamente interessati, e questo è ammirevole. In tutto questo grande movimento che c'è stato in questi ultimi anni di riabilitazione, di rilancio dei valori, della famiglia naturale, ma nessuno si è mai occupato di questi ragazzi che comunque erano l'esito delle problematiche fisiologiche della famiglia naturale, o naturale, comunque di una famiglia. Ah, guardi, tanto ciao Elia. Guardi, noi quando ho pensato di fondare questa associazione nel 2000, fine 2009, poi l'abbiamo fondata nel 2010, l'ho fatto perché sentivo che di questo che di cui stiamo parlando oggi non se ne parlava proprio. Cioè se ne sbattevano veramente tutti, diciamo la verità. Sì, chiaramente. Erano figli di nessuno a tutti gli effetti. Quello che dicevo ragazzi prima è proprio questo, che qualche associazione, qualche cooperativa, qualche famiglia accogliente, fortunatamente dal basso, con le proprie risorse, sostiene dei ragazzi e non li abbandona. E quindi questa cosa facilita per alcuni un percorso come quello, ad esempio, che raccontavano Elisa. Mi sembra che ormai sia chiaro diciamo, lo sforzo istituzionale che c'è stato, e sia chiaro anche il problema. Però ripeto, il mio rovello rimane questo, che in questo momento particolare, in cui si tende comunque a ridare valore, questi sono punti di vista che non voglio discutere, alla cosiddetta famiglia naturale, di quelli che sono gli esiti negativi della famiglia, si tende un po' a tenerli sotto il tappeto, come se fosse la polvere che nessuno vuole vedere. Signori, dalle famiglie viene fuori anche questo, e anche questo materiale umano, chiamiamolo così, ha pieno diritto di vivere la sua vita sociale, emotiva e professionale. E oggi ne abbiamo parlato. Grazie a tutti.